il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige, a cura di Emanuele Cenghiaro. Abbiamo parlato più volte di vino in questa nostra trasmissione e vorremmo farlo anche oggi con un'azienda che si occupa di vino, produce Prosecco, però ha anche iniziato la produzione di un prodotto che non potremmo forse proprio chiamare vino, forse un fashion drink, e che ci sembra particolarmente appropriata in questo periodo dell'anno. Allora, oggi parliamo con Isabella Spagnolo dell'azienda Iris Vigneti, che è anche la promotrice di questa collezione Isabella Spagnolo di appunto fashion drink. Benvenuta Isabella. Grazie a voi. Ecco, che cos'è un fashion drink innanzitutto? In questo caso si tratta di un mosto non fermentato, quindi ad alcol zero, adatto a qualsiasi brindisi senza alcol. Mosto, per cui non stiamo parlando di vino, in realtà. No, ma di uva, sì. Esatto, ma di uva. È uva con le bollicine, adatto a qualsiasi tipo di brindisi, quando non si vuole bere alcol, per tantissime occasioni. E io con il mio lavoro me ne sto accorgendo veramente ogni giorno. Infatti mi chiedevo perché un'azienda che produce Prosecco, sappiamo il Prosecco quale successo ha nel mondo, decide di produrre qualche cosa che non è Prosecco, che non è vino, e che quindi sono bollicine alternative. Proprio perché il mio lavoro è il brindisi. Io porto il brindisi, con il Prosecco ovviamente il brindisi italiano più famoso e molto riconosciuto a livello internazionale in grande espansione. Ecco, allora che mi sono accorta che in certe occasioni, no, non bevo alcol. E a Cipicchia allora come brindavano con cose alternative che però non avevano sufficientemente bolli, non usavano il calice, l'eleganza dello stile italiano. Ecco, io ho portato lo stile italiano quando non si beve alcol. Ecco, può dirci esattamente che cosa c'è dentro una bottiglia appunto di questo mosto, di questo Isabella Spagnolo, sì. Diciamo, perché si chiama proprio così. Esatto, si chiama Isabella Ice. Isabella Ice è fatto di mosto d'uva addizionato di bollicine artificialmente. Cosa c'è di diverso rispetto a bere, cioè si fa pensare appunto a un alcol zero, a un'aranciata, oppure quelli aperitivi che vengono proposti anche in bottiglia già pronti da utilizzare? Qual è la diversità di bere questo tipo di vino? Infatti è un brevetto riconosciuto a livello internazionale di processo e di prodotto. Innanzitutto trattasi di un prodotto fatto in un'azienda vitivinicola, quindi non industriale. È un prodotto creato proprio artigianalmente, quindi ha la qualità e la capacità di chi ha imparato a fare vino ormai da tantissimi anni ed è conosciuto nel mondo, quindi è stato, il suo ingegnere è un enologo, mio marito, e infine è un brindisi interessante perché porta lo stile italiano e il calice, che è il soggetto specialmente in questi giorni più importante di quando si vuole in qualche modo festeggiare qualcosa di importante nel mondo. Mi viene anche da pensare che comunque se è a base di mosto d'uva la base è appunto la frutta, rispetto a tante altre bevande che dicono che si rifanno alla frutta ma dentro poi si vanno a leggere gli ingredienti, 5%, 10% di succo di arancia eccetera, in questo caso la base è comunque frutta. Sì, perché è la grande professionalità delle aziende agricole. Le aziende agricole di base producono, secondo quelli che sono i codici e regolamenti, prodotti sani, genuini e prevalentemente fatti dalla frutta, e quindi uscendo da un'azienda vitivinicola ha delle caratteristiche che sicuramente non ha noi prodotti che escono da altri tipi di aziende, magari buoni, però comunque questo tipo di garanzia. La garanzia dei controlli che ci sono sulle aziende vitivinicole che producono la grande marchia di garanzia. Ecco, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. Oh, because it's Christmas. Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas. Oh, one night. Torniamo in linea con la trasmissione del Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di bollicine, ma di bollicine non alcoliche, e lo stiamo facendo con Isabella Spagnolo dell'azienda Iris Vigneti. Abbiamo visto prima che cosa si intende per fashion drink. Volevo chiederle adesso due cose in particolare. Uno, ho visto sul vostro sito internet che sono anche suggeriti ai vegetariani, quindi per che motivo? E l'altra, poi, volevo capire chi lo acquista e dove si può acquistare questo vino. Beh, innanzitutto perché il fattore culturale di chi si dedica in qualche modo al cibo naturale vegetariano, in questo caso trattandosi di frutta, uva, il prodotto è perfettamente in regola con quelli che sono i principi e i pensieri di molte persone che praticano questa filosofia di vita e stile di vita sano e rispettoso anche di quelle che sono le idee. È interessante comunque anche per quanto riguarda tutto un tipo particolare di dieta nella quale c'è l'interesse a non voler introdurre l'alcol per determinati motivi, oppure perché non si può bere perché si è una riunione di lavoro, oppure una donna certo. In gravidanza, oppure si assumono dei farmaci. E quindi è un'alternativa molto interessante, è un prodotto dolce perché l'uva nasce dolce e quindi interessante per ogni brindigliante col dessert. Ecco, come sapore cosa ricorda? Più un moscato, più un manzemino? Non so. Sì, più un moscato come tipo di avocado in bocca, ecco, quindi è molto interessante. Poi a livello internazionale ci viene riconosciuto l'arte italiana e lo stile italiano del fare spumanti, quindi è apprezzato anche da chi si approccia al vino, anche le nazioni emergenti, proprio nell'interesse per quanto riguarda la cultura del vino, e quindi è un ottimo prodotto per poi far veicolare lo spumante, quello alcolico, perché è un approccio d'inizio, un prodotto dolce che invita quindi a essere bevuto con facilità e apre le porte a quello che poi invece può essere un brindisi più importante di diverso calibro. Ecco, quindi può essere usato sia come aperitivo, quindi un'alternativa come aperitivo, sì. E, oppure come accompagnamento ai dolci di fine pasto. Sì, anche perché magari uno può aver bevuto qualcosa di molto importante abbinato a cibi come la carne o un intero pranzo di nozze, poi alla fine c'è necessità di un brindisi, mettersi alla guida. Ecco, certo. Allora che arriva Isabella Ice con la fetta di torta. Senta, dove lo comprano questo vino? Se il vostro sito è in inglese, isabellospagnolo.com, significa che forse il mercato è più estero. In Italia siamo meno abituati a parlare di alcol zero. Noi comunque siamo culturalmente abituati al vino, e quindi è un prodotto particolare che non ha una grande diffusione. Anche le birre analcoliche vedo che hanno sì una diffusione, ma limitata rispetto forse anche... Anche questo. Sì, paesi stranieri meno abituati ad avere questa cultura del vino lo apprezzano, e sono comunque anche così in aumento i paesi che in qualche modo si stanno portando poi alla conoscenza dei vini, ma passano attraverso prodotti alternativi all'inizio, e comunque per mille ragioni si può comprare anche in Italia, nei ristoranti o nelle enoteche, nei negozi qualificati. Quindi si può trovare anche in Italia questo tipo di prodotto? Esatto, il sito in inglese, però c'è Google Translator che quindi traduce, è fatto in una lingua internazionale che parla, che vuole far anche dare un segnale che l'Italia è un paese che può internazionalizzare i propri prodotti, cioè parla una lingua per tutti, con lo stile italiano. Essendo il brindisi italiano, non c'è problema che questo sito venga confuso con un traduttore di qualsiasi altra parte del mondo, è chiaramente italiano, c'è Venezia dappertutto. Ci sono i vignetti, c'è lo stile di fare il nostro lavoro in maniera così unica, irripetibile, culturalmente portante, che quindi non lo rende sicuramente confondibile a un sito fatto in qualsiasi altra parte del mondo. Però in inglese vuole dire uniamoci tutti in un brindisi, perché poi alla fine questo è la cosa più importante. Ecco, io non ho detto dove avete sede. Noi abbiamo sede a Marino di Piave. A Marino di Piave. Vuole ripetere i siti internet dove si possono avere informazioni? Per quanto riguarda Isabella Ice, è www.isabellaspagnolocollection.com. Grazie, e allora un brindisi con questo nuovo tipo di prodotto, un brindisi Ice o alcol zero. Buon Natale a tutti. Grazie. Chiudiamo quest'ultima trasmissione dell'anno con le consuete brevi notizie che ci rimandano anche a gennaio. Parliamo di biologico. La Commissione europea, nel sottolineare che l'Italia sta facendo un ottimo lavoro, ribadisce di riporre molta fiducia nel mercato del biologico. I 3,8 miliardi di euro dedicati al settore nell'ambito dei progetti di ricerca e sviluppo, finanziati appunto dall'Unione europea, ne sono la prova. In Europa il mercato del biologico cresce, però il territorio ad esso dedicato no, da qui l'importanza di lavorare sulla fiducia dei consumatori. E in effetti la proposta di legge sul biologico, che durante il semestre di presidenza italiana che si sta chiudendo in questi giorni ha fatto dei decisi passi in avanti, trova però ancora la contrarietà di 7 paesi, tra cui l'Austria, e numerose richieste di modifica. Se ne dovrà occupare la prossima presidenza, che è affidata alla Lettonia fino al giugno del 2015. Sempre in tema di Unione Europea, parliamo di ricambio generazionale in agricoltura, partendo dal presupposto che il ricambio generazionale rappresenta una necessità in tutta l'Europa, dove i lavoratori under 35 del settore agricolo sono solamente il 7,5%, la presidenza di turno italiana ha presentato un documento sull'argomento che è stato approvato e prevede 3 punti cardine: la concessione di crediti da parte della Banca Europea degli Investimenti, appunto ai giovani agricoltori, complementari agli strumenti nazionali già esistenti, misure per l'accesso alla terra, ovvero strumenti che favoriscono l'acquisto di terreni agricoli da parte sempre dei giovani, anche in deroga alle attuali norme in materia di aiuti di Stato, e infine l'istituzione di una sorta di Erasmus per i giovani agricoltori europei, che faciliti lo scambio di informazioni e esperienze professionali tra le diverse realtà agricole europee. Per concludere, il comune di Sant'Orso in provincia di Vicenza organizza venerdì 23 gennaio 2015 un workshop Territorio, cambiamenti climatici e alluvioni verso un progetto territoriale di sicurezza idraulica e valorizzazione dell'acqua, per sviluppare un progetto da candidare alla Call 2015 del programma europeo LIFE sul cambiamento climatico. Alle ore 14.30 presso la casa del custode di Villa Rossi, appunto nel comune di Sant'Orso. Anche per questa settimana è tutto, anzi anche per quest'anno. Vi diamo appuntamento all'anno prossimo con la trasmissione del Quadrifoglio, e auguri di buon Natale a tutti quanti. Avete ascoltato il Quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. 4 elementi per la nostra vita. In collaborazione con Arcav,